allora rientriamo, scusate, in diretta sulle note di questa bella canzone. Dall'altra parte del telefono Salvatore Stasi. Ciao Salvatore, ciao. Buongiorno. Chiaramente buongiorno a voi. Ci occupiamo della questione Taranto, dunque dell'Ilva, a pochi giorni di distanza dal referendum promosso da Taranto Futura, sostenuto da tante associazioni ambientaliste. Vi è stata un'affluenza piuttosto tiepida, meno del 20% si è recato alle urne. Esatto. Chi lo ha fatto comunque per votare nella stragrande maggioranza per la chiusura dell'Ilva, ma insomma non è stato sufficiente. Ora, Salvatore, occorre interrogarsi su questo risultato, no? Più in generale sul fatto che la chiusura dell'Ilva, insomma la risoluzione del nodo salute lavoro, al di là di qualsiasi considerazione che ovviamente faremo sull'attrattiva referendaria e anche del voto in generale a Taranto, che un po' chiaramente è indicativo di una tendenza che si è verificata non solo sul referendum, questo va detto, ma insomma la risoluzione è assai lontana di tutti questi nodi. Occorre ovviamente progettare un futuro diverso, insomma non è facile, ecco. No, assolutamente no. Vabbè, io ecco, facciamo una piccolissima premessa che credo sia fondamentale, perché sennò poi non capiamo la questione referendaria, perché ha tante concause, ma certamente ha bisogno di una premessa. Quello che è accaduto in questo territorio è potuto accadere perché si è sempre giocato sul mettere in contrasto, in contrapposizione, in contraddizione cittadini da una parte e lavoratori dall'altra. Questo è stato l'elemento che per decenni ha consentito poi alla parte politica, alla parte sindacale, come dire, alimentando questo elemento di contraddizione, di far fare arriva i porci e comodi suoi. Se non partiamo da questa premessa non capiamo anche quello che accade poi nel referendum, ma come, diciamo, come coda di una situazione in un certo senso. Il pregio del comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti è stato esattamente quello di rompere quel meccanismo. Se ha avuto un merito è stato esattamente questo. Non a caso nel suo percorso, che parte dal 2 agosto e sta proseguendo tuttora, poi nel merito entriamo, per arrivare al botto di 30.000 persone il 15 dicembre, manifestazione alla quale hanno partecipato tanti lavoratori Ilva, no? Con le proprie famiglie, ovviamente tanti cittadini, pediatri, tutto eccetera. Un percorso che ha tenuto insieme questi due elementi. Non a caso, come comitato, ne abbiamo sempre detto, non è che noi siamo per la chiusura dell'Ilva tu cur. Molto semplicemente abbiamo detto, c'è un giudice che ha detto tu inquini, quegli impianti vanno chiusi perché sono inquinanti, bene, e noi aggiungevamo nelle bonifiche devono essere reimpiegati i lavoratori, cioè l'Ilva si deve attenere a quello, deve spendere i soldi per bonificare, nelle bonifiche devono rientrare i lavoratori. Questo riequilibrava la situazione e teneva insieme i due soggetti, no? che finché saranno in contraddizione, ovviamente sarà una guerra persa. Ora, che cosa è accaduto? Questo poi si deve, io non vi sento più. Ci siamo, Salvatore. Scusate, no, sentivo un vuoto, pensavo che stessi parlando da solo. Allora, che cosa è accaduto? Questo referendum, arriviamo al referendum. Questo referendum, uno, oggettivamente era un po' tardi, perché oltretutto veniva dopo la consulta, che si era dichiarata a favore della legge Salva Ilva, che noi ovviamente chiamiamo Ammazza Taranto, ma questo comunque era già prevedibile, era già nei fatti. Questa cosa qua, che avrebbe creato ulteriore divisione appunto fra cittadini e lavoratori, peraltro aveva due quesiti, come dire, non dico in contraddizione fra di loro, ma poveri, e mi spiego, perché uno dice vuoi la chiusura dell'Ilva nel suo complesso, e l'altro era vuoi la chiusura dell'aria a caldo. Allora va spiegato a qualcuno che se tu chiudi l'aria a caldo è chiaro che chiude comunque l'Ilva, non può funzionare l'Ilva, perché quello è un processo produttivo unico, se manca l'aria a caldo non funziona l'aria a freddo, non so se è chiaro. E mancava soprattutto un terzo quesito che originariamente c'era e quindi avrebbe avuto senso questo referendum due o tre anni fa, che era esattamente quello, cioè messa a norma degli impianti inquinanti e reimpiego dei lavoratori, no, nelle bonifiche. Questo era è scomparso. Tu capisci a questo punto che c'erano tutte le condizioni perché andasse buca. Ma in questo senso io dico, ci sono delle forze ambientaliste, noi le rispettiamo, per carità, ci mancherebbe, però che in questo gioco di contraddizione tra lavoratori e cittadini hanno un ruolo che secondo me oggettivamente, come si diceva una volta, no? Come dire, oggettivamente favorisce Riva, perché tu non puoi andare da un padre di famiglia che c'ha mutuo, eccetera, e dire no, a me non me ne frega nulla, cioè tu puoi andare anche a morire, no? Non funziona così. Allora, tanto è vero che, per farti un esempio, una settimana prima del referendum e prima della consulta, cioè quindi il 7 aprile, il 9 si decideva, c'era la decisione della consulta, qui c'era stata una manifestazione promossa da soggetti sui quali noi abbiamo anche qualche perplessità, voglio dire, però al di là di tutto. Ma in quel caso, per esempio, il comitato è stato veramente attaccato impunemente, siccome non abbiamo dato un'adesione come comitato, si è detto chi vuole partecipare partecipa. Perché? No? Semplicemente per una ragione, perché all'ordine del giorno c'era chiudiamo l'Ilva, sostengo la magistratura, quella stessa magistratura che poi attraverso la consulta voglio dire, ha voglia che sia a favore di Riva, poi come dire, dal nostro punto di vista la magistratura sta semplicemente facendo quello che è un suo dovere fare, cosa che peraltro per anni non ha fatto. Quindi non possiamo scendere in piazza al di là degli aspetti singoli, se uno singolarmente, anche se viene a riunione del comitato, voleva andarci, ci andava, ma come comitato ci sembrava assolutamente improprio, no? Essere in quella manifestazione, proprio perché il contenuto era povero, non a caso, a distanza di un paio di mesi, diciamo tre mesi e qualcosa, da 30.000 persone si è passata a 3-4.000 persone, ma ovviamente, no? Allora, tutti questi elementi sono elementi, come dire, di riflessione. L'unico percorso, io direi che in questo senso, il percorso è assolutamente imbuto, nel senso che riusciamo a tenere dentro appunto salute e lavoro, altrimenti è finita, ovviamente tenendo presente che la salute, come dire, è prioritaria da questo punto di vista, ma non la si può mettere in contraddizione con l'elemento occupazionale, altrimenti è una battaglia persa. E ripeto, ci sono forze da un lato e dall'altro che sono, come dire, apparentemente in contrasto fra di loro, nei fatti oggettivamente, il cui Prodes famoso, no, giocano tutto a favore di Riva, nel senso che cercavo di spiegare prima. Io spero di essere stato chiaro e di aver spiegato bene qual è la situazione qui. E tanto è vero che noi non a caso adesso stiamo facendo cosa, tra l'altro la Bionda Rossa ha già dato la sua adesione, quindi ci sarete, stiamo preparando il primo maggio organizzato, il cui titolo è lavoro, ma quale lavoro? Quindi affinché il primo maggio diventi nuovamente una giornata di lotta, affinché, ecco, in una realtà dove così industrializzata, no? C'è l'Ilva, c'è l'Arsenale, c'è l'Eni, c'è il cementificio, quindi che ci ha devastato il territorio insieme a Riva, ecco, noi non dimentichiamo tutti questi altri soggetti che hanno devastato il territorio, abbiamo il 44% di disoccupati, quindi la vogliamo riproporre, così come non può esserci un lavoro che distrugge, scusate, un processo produttivo, come dire, uno sviluppo economico che distrugge un territorio, e quindi iniziamo a pensare anche al futuro, perché questo deve essere chiaro a tutti e tutti. Riva, finché avrà la possibilità, come gli sta consentendo il governo Monti, e tutto l'ambaradan che circonda, insomma, tutti questi signori e signorotti che sono stati al suo soldo, tirerà il collo finché è possibile a questi impianti, poi lascerà il cerino in mano alla collettività. Su questo non c'è discussione. Ne volete la dimostrazione? Immediatamente. Dovete sapere che nonostante questi provvedimenti della magistratura e quant'altro, Riva ha comunque continuato a produrre. L'aria a caldo sta andando a pieno. Conseguentemente l'aria a freddo, no? Come dire, dovrebbe funzionare altrettanto a pieno. Ebbene, dovete sapere che hanno, sono stati prima in cassa e adesso hanno in essere un contratto di solidarietà. Cioè di questo stiamo parlando. L'aria a freddo che è conseguenziale all'aria a caldo, nonostante, ripeto, l'aria a caldo sia sovraproducendo, in questo momento la gente non sta prendendo il salario che dovrebbe prendere. Di che cosa stiamo parlando? Quando io dico no, che vuole lasciare poi il cerino in mano alla collettività. Questo è. Sì. Allora è quindi contro questo che ci stiamo battendo. E quindi il 1° maggio noi, come dire, stiamo facendo un appello appunto perché di queste cose si possa discutere, perché un percorso possa diventare collettivo, perché ci si intercetti dalla Notav alla Noponte alle realtà di fabbrica devastate. Quel giorno avranno spazio le realtà di lotta, non faremo passerelle, ci sono artisti che stanno venendo in modo gratuito, perché nostro malgrado Taranto è al centro, ma soprattutto è al centro questo tipo di progetto che dal basso, altra cosa fondamentale, in totale autogestione, in totale auto-organizzazione, con le assemblee di piazza, con la partecipazione realmente popolare di massa, no? Vogliamo invertire questa tendenza. Chi invece a modo suo, come dire, aveva anche pensato forse che quella manifestazione di 30.000 persone del 15 dicembre sarebbero diventati tanti voti, per esempio per Bonelli, e aveva fatto male i suoi conti. E noi questo non lo accettiamo, non lo accettiamo da nessuno, perché altrimenti viene meno il protagonismo popolare, si ricomincia con col concetto di delega, che è un altro degli elementi che ha devastato questo territorio, perché poi quando è stata data delega avete visto che cosa è successo, erano tutti al soldo reale, politici, sindacalisti e quant'altro, di Riva. Ecco, non so, io spero di aver dato un quadro d'insieme, ovviamente in un modo anche forse un po' generico, ma io credo che questi siano i concetti alla base, che poi noi riassumiamo molto semplicemente in sia diritti né ricatti, e 5 questioni all'ordine del giorno, che per noi sono reddito, reddito, ambiente, salute, lavoro, cultura, intesa nel senso ovviamente più lato, attraverso come metodologia l'auto-organizzazione, controllo popolare. Questi credo che siano gli elementi su cui possiamo sviluppare, e non solo in questo territorio, ma dove già, come dire, lotte di questo tipo sono nate, stanno nascendo, si coordinano, e come dire, è questo che può far sobbalzare un po' dalle sedie i signori e i signorotti che per tanti anni hanno comandato non solo in questo territorio, ma in questo paese e nel mondo. Senti Salvatore, a proposito di signori e signorotti, insomma, va detto che al di là proprio, diciamo, è emerso quanto, insomma, tutte le forze politiche e sindacali abbiano optato soprattutto per non schierarsi, cioè al di là del fatto delle considerazioni che si possono fare appunto sul referendum, sul suo esito, certo. Ma quello che è emerso, insomma, è proprio questa volontà di questo atteggiamento codista, potremmo dire, come tu ben hai individuato, quasi trasversale, insomma, alle forze politiche rispetto poi ai progetti di Riva, perché poi non esprimendoci, mantenendo il riservo, il silenzio, in alcuni casi i sindacati confederali ad esempio hanno proprio osteggiato l'indizione stessa del referendum, ma insomma anche lo stesso Movimento 5 Stelle, insomma, non ha detto praticamente nulla, e Selli invece ha cercato di giocare, come ricordavi, dividendo la questione dell'aria a caldo e dell'aria a freddo, quindi un po' con i piedi in due scarpe, potremmo dire, insomma. È rilevante anche, diciamo, questo questi imbarazzi che questa questione del referendum ha suscitato presso le forze politiche, no? Guarda, in effetti, come dire, no? Infatti un po' di compagni nostri sono andati a votare, cioè capiamo di avere, pur avendo quel tipo di posizione che io credo di aver espresso bene, insomma, cioè veramente era oggettivamente inutile, e in questo senso si è dato una mano a Riva, capisci? In questo senso si è dato una, guarda caso, lo stesso sindaco che per tanto tempo addietro aveva osteggiato, sai, si è fatto paraculo su questa questione qua. E quello che dici tu è un'ovvietà, ma non perché la dici tu, cioè è un'ovvietà nel senso che è conseguenziale al fatto che questi sono atti giudiziari, non c'è stato uno di quelli che tu hai citato, tranne forse il Movimento 5 Stelle, ma che è neonato sotto certi aspetti, che non sia stato beccato al telefono in intercettazioni con Archinà, che era il ministro degli esteri di Riva, cioè quello che sganciava le mazzette. Punto. E mi spiego, cioè, che cosa potevano dire secondo te? No? Però puntare, diciamo, a che non riuscisse e quant'altro, semplicemente quello, rimarcando sempre il problema del lavoro, rimarcando sempre, soprattutto i 3-3, voglio dire, no? Rimarcando la questione occupazionale, come sempre, e quant'altro, di questo stiamo parlando, ma il loro atteggiamento è assolutamente coerente, su questo non credo che ci possano essere dubbi, perché chi ha preso le mazzette, chi è stato intercettato a come dovevano fare per evitare che, diciamo, le inchieste andassero avanti e quant'altro, voglio dire, è stato intercettato Vendola, è stato intercettato il sindaco Stefano, voglio ricordare che un consigliere provinciale è tuttora agli arresti domiciliari per gli stessi motivi. Noi sappiamo che sono pronti dei mandati di cattura non da adesso, non capiamo perché non partano, per cui non è inutile fare nomi, perché voglio dire abbiamo delle voci in questo senso, ma diciamo voci abbastanza fondate, ed è evidente che a questo punto non potevano avere un atteggiamento differente, ma noi dobbiamo cercare, ecco, perché il Comitato credo in questo senso ha un ruolo fondamentale, no? Dobbiamo fare un passo avanti, capisci? Noi non ci possiamo soffermare, dobbiamo ripartire dal fatto che comunque c'è andata poca gente a votare, dobbiamo ripartire da quello, insistere e persistere. Questo deve mettere a posto i lavoratori che stanno lì dentro, sono quelli che devono fare le bonifiche, cioè, capisci? Uno, dobbiamo riprogettare un'altra città, ma dobbiamo riprogettarla dal basso, perché nel momento in cui, e noi stiamo lavorando già in questa direzione, arriveranno i soldi, o abbiamo la capacità di tenere un controllo popolare reale su questi soldi che arriveranno nei quartieri, che già qualcosa sta arrivando, o altrimenti magari ci ritroveremo, io una volta l'ho detto così, un po' scherzando, ma credo che lo scherzo era fino a un certo punto, che magari il signor Riva, con qualche prestanome, magari si inventa una ditta che va a prendere i lavori di bonifica, no? Come dire, della sua azienda, quindi lui ci mangia un'altra volta ancora. È come quando qua volevano fare il San Raffaele, grazie al signor Vendola, va bene? Che diceva che Don Verzè, voi conoscete benissimo chi è, noi lo so dichiarare ad ascoltatori di Radio Onda Rossa, era un destinato da Dio, cioè di questo stiamo parlando. Poi quando è finito nei guai ha preso le distanze, il San Raffaele non si fa più, ma ne faranno un altro di grande ospedale, che però non prevede la prevenzione, ma interviene, no? Diciamo sul fatto, sul tumore, la parte chirurgica, la parte ortopedica, ovvero questi il giorno ti ammazzano e poi gli stessi personaggi, attraverso per esempio la sanità o ripeto attraverso le bonifiche, no? Ci fanno i soldi sulla tua salute, sulla tua pelle e sulle bonifiche. Non so se il meccanismo è chiaro. Parliamo di una città nella quale ci sono da anni, un'inchiesta dell'Espresso credo una quindicina di anni fa diceva, e ci sono ancora, circa 12 logge massoniche coperte. Questa è una città, come dire, dove girano fin troppi affari, perché c'è il porto, perché ci sono i cosiddetti poteri forti, veri, che si chiamano Ilva, che si chiamano Marina, che si chiamano tutto questo bell'ambaradan. Una città che tutto era, che ha vocazione militare ed industriale, e invece tale l'hanno fatto diventare. Stavo provando a ricrearci un futuro diverso, e in questo senso lo puoi fare solamente attraverso questa metodologia della non delega e dell'auto-organizzazione, che qui stiamo provando piuttosto a praticare che non a predicare. Lo dico con estrema umiltà, perché ovviamente non è facile, e la questione la questione, come dire, non è facile, appunto, è tutto un percorso che, come le compagne e i compagni capiscono, è tutto assolutamente da costruire. Senti, non so se spero di essere stato esaustivo e chiaro, soprattutto perché qui c'è un po' di vento. L'audio è abbastanza pulito, insomma. Cioè, tu dicevi poco fa, insomma, del cerino in mano e del fatto che molto probabilmente, verosimilmente, insomma, Riva proverà a spremere fino a che potrà, e poi magari appunto lo lascerà questo cerino in mano al lavoratori e lavoratrici. È un segnale importante già il fatto che ci sia questa cassa integrazione in provincia di Frosinone, nell'azienda Ilva. Insomma, si tratta di un'officina di carpenteria che in effetti opera, potremmo dire, a livello di indotto per lo stabilimento pugliese anche. Ci sono questi provvedimenti di cassa integrazione che sembrano preparare non tanto una ristrutturazione ma una cessazione di attività. Insomma, è un segnale anche per Taranto questo, Salvatore? Assolutamente sì. Perché, ribadisco, questi impianti comunque, no? Non ho detto una cosa prima molto molto molto molto importante. Comunque, dal 1 gennaio 2016 questa azienda non può più esistere, così com'è, perché la europea, mentre la vita italiana è fatta per far fare profitti e comunque, come dire, far inquinare, la europea, questo tipo di impianti non sono previsti, per cui quindi del 1 gennaio 2016 al 1 secondo qui chiudono, saldandole le porte, cioè non ha più ragione di esistere, quindi al massimo potrà produrre fino al 31 dicembre 2015. Quindi comunque la prospettiva è quella, attenzione, ma non a caso, mentre qui si fanno tutti le pippe su tante questioni, faccio un esempio, bisogna capire perché Fabio Riva, uno dei figli di Riva, sta a Londra. Perché sta a Londra e lì stanno rimandando puntualmente il suo procedimento per l'estradizione in Italia, semplicemente perché lui è quello che conosce tutti i segreti e sta scompattando il gruppo Riva in modo tale che il SPA alla fine rimarrà uno scatolone vuoto. In realtà già dei magistrati hanno provato a mettere i soldi, le mani sui soldi di Riva, non hanno trovato niente. Quindi, come dire, mi pare che il processo è chiarissimo da questo punto di vista, cioè non credo, per questo motivo sull'area europea e per quello che vi sto dicendo, sono i segnali più chiari che questo qua, l'unica cosa che ha intenzione di fare è esattamente quello che vi ho detto, spremere fino in fondo e buonanotte. Va bene, allora, no, come abbiamo iniziato concludiamo, diciamo, nel senso che non ci si dà per vinti, ovviamente, no, si prepara, questo 1° maggio soprattutto di lotta, alternativo dal punto di vista dei valori, delle scelte, dei messaggi, no, rispetto a quelli sindacali. Lì si spendono un po' di soldi per le vettine, noi cercheremo di affrontare le problematiche concrete anche attraverso dei momenti di socialità, e ringraziamo tutti gli artisti sin d'ora che si stanno spendendo in modo totalmente gratuito. Quindi questa è una cosa che va rimarcata, proprio perché si invertano anche in questo senso dei meccanismi. Proveremo a discuterne, ma sarà, io credo, anche questo un primo passo, come dire, tanti altri ne faremo. Ecco, proprio perché in questo paese crediamo che con quel tipo di metodologia e affrontando le questioni nel loro cuore, penso che finalmente, insomma, la creazione di quel nuovo mondo possibile, partendo dalle singole realtà, quindi dallo stravolgimento totale di 180 gradi nelle singole realtà dei processi, come dire, dei processi sociali, dei processi di sviluppo economico, credo che questa sia la strada per ribaltare. Perfetto, grazie a Salvatore Stasi, ci sentiamo presto. Vi abbraccio tutti e un buon lavoro. Ciao. Ciao.